Taranto, diossina record. A preoccupare alcune associazioni la quantità di diossina immessa nell'aria dall'impianto siderurgico dell'Ilva di Taranto. Di pazza Dio, quasi miracolato, ci sta quello ci si Dio. Acqua che si campava di la terra ogni momento, ma ci vuoi campi da sucato tu l'inquinamento. Le industriali e portati sordi pazza Dio, quasi miracolato, ci sta quello ci si Dio. Acqua che si campava di la terra ogni momento, ma ci vuoi campi da sucato tu l'inquinamento. Soli, mare, vento, noi e custo, l'usa lento, sta morimo piano piano, grazie all'Ilve e a Cerano. Centrali termoelettriche di termoinquinamento aumentano i tumori del 30%, linfomi, leucemi e problemi polmonari. Respiramo sul cudu calipanista ricalare, si chiama diossina e tu non la puoi vedere. Nell'aria silenziosa viaggia per farci star male, si vedi di lontano con tu fumo scuro. E l'Ilva tarantina venti dati sicuro, ti pensi che tu stai tu non ci ria, e tu trasporta tutto pur la mucaria. Pensano picchi tu una qui di poveri cristiani, cacchiantono la terra ancora con le proprie mani. Raccolgono quei frutti tanto belli a vedere, pienissimi di veleni sicuro devi sapere. Le industriali e portati sordi pazza Dio, fasi miracolato ci stai buono ci si Dio. Acqua che si campava di la terra ogni momento, ma ci vuoi campi da sucato tu l'inquinamento. Le industriali e portati sordi pazza Dio, fasi miracolato ci stai buono ci si Dio. Acqua che si campava di la terra ogni momento, ma ci vuoi campi da sucato tu l'inquinamento. Non pollution, moto, ma è Bob Marley in senna. L'audio lì solution, c'ha l'unico credo che regna. Guarda il mondo e brucia, no, come se io fossi legna. Non ho più rifugio, sono gente che non si sdegna. L'unico inquinamento che io accetto è quell'acustico. Si provoco dal suono che ogni giorno io vivo e mastico. La sostituzione tesa e cambiamento ci vuole drastico. Perché bruciamo lentamente con esplosivo al plastico. No, non sono elastico, non voglio vie di mezzo. Resisto, resto e lotto, se mi piego non mi spezzo. Non so quanto mi spiego, ma sta cosa mi rende pazzo. Di reagire ti chiedo, non farla parte del pupazzo. Ti chiedo di lottare, ma non parlo di politica. Ma se non ci diamo da fare, resta un'illusione onirica. Ti basterebbe fare pure un piccolo sforzo, cercando di rialzarti anche se cadi sul dorso. Le industriali e portati sordi pazza Dio, ma si miracolato ci stai buono ci si Dio. Acqua che si campava di la terra ogni momento, ma ci vuoi campi da sucato tu l'inquinamento. Le industriali e portati sordi pazza Dio, ma si miracolato ci stai buono ci si Dio. Acqua che si campava di la terra ogni momento, ma ci vuoi campi da sucato tu l'inquinamento. Campo solo chi fa diari, qua la terra sta fermo e pesce solo un mio ricori. Babilonia si ne fotti e pensa solo a lo mangiare. E pilla merda sua, ogni festa tocca a mori. Sciamo, si ti di questa fresca, movi la meno qua nello mercato di la macchina sinistra e fai puttani. Con la boccia che na tutti ambientalisti siti, ci si sgombrano furoni, toli fessi cicchiantini. Ma quali euro 4, 5 piccatassi, ci bruciano petrolio sempre in merda l'aria lassi. Non si contratta la questione e la fila, qui c'è la bicicletta che nessuno si la fila. Gli scienziati buoni e sudanati o rega non ci sbaglia. Miaccio di Lipoli e Pugliaga si sta squaglia. Ma decidi che ogni lassata e pezza e tutti sproni. Qui adito macchiati che la stanza non funziona. Le industriali e portati sordi pazza Dio, ma si miracolato ci stai buono ci si Dio. Acqua che si campava di la terra ogni momento, ma ci vuoi campi da sucato tu l'inquinamento. Le industriali e portati sordi pazza Dio, ma si miraculato ci stai buono ci si Dio. Acqua che si campava di la terra ogni momento, ma ci vuoi campi da sucato tu l'inquinamento. Tu mondo vieni inquinamento, dipendi solo di lo vento. Fumi industriali e diossina, non mor veleni stamattina. Tu mondo vieni inquinamento, dipendi solo di lo vento. Fumi industriali e diossina, non mor veleni stamattina. Nel 2005 l'ILVA ha dichiarato di aver immesso nell'ambiente 93 grammi di diossina. Sempre nel 2005 l'ILVA avrebbe prodotto il 90,3% dell'intera diossina industriale italiana stimata nel registro INES.